Uyelele mama, uyelele mama siya chavula tina. Yelele mama, yelele mama. Oh yeah. Yelele mama, yelele mama. Zimbabwe. Yelele mama, yelele mama. Oh yeah. Yelele mama, yelele mama. Zambia. Yelele mama, yelele mama. Oh yeah. Yelele mama, yelele mama. Malawi. Yelele mama, yelele mama. Oh yeah. Yelele mama, yelele mama. Mozambique. Yelele mama, yelele mama. Oh yeah. Yelele mama, yelele mama. Angola. Yelele mama, yelele mama. Oh yeah. Yelele mama, yelele mama. Botswana. Yelele mama, yelele mama. Oh yeah. Yelele mama, yelele mama. Lesotho. Yelele mama, yelele mama. Oh yeah. Yelele mama, yelele mama. Swaziland. Yelele mama, yelele mama. Oh yeah. Yelele mama, yelele mama. South Africa. Yelele mama, yelele mama. Siyajabula thina. Yelele, yelele, yelele mama. Siyajabula thina. Yelele mama, yelele mama. Siyajabula thina. Yelele, yelele, yelele mama. Siyajabula thina. Yelele mama, yelele mama. Wow, Africa. Yelele mama, yelele mama. Wow, Africa. Yelele mama, yelele mama. Wow, Africa. Yelele mama, yelele mama. Wow, Africa. Yelele mama, yelele mama. Wow, Morocco. Yelele mama, yelele mama. Wow, Somalia. Yelele mama, yelele mama. Wow, Ghana. Yelele mama, yelele mama. Wow, Nigeria. Yelele mama, yelele mama. Wow, Gambia. Yelele mama, yelele mama. Wow, Sierra Leone. Yelele mama, yelele mama. Wow, Kipite. Yelele mama, yelele mama. Wow, Africa. Yelele mama, yelele mama. Siyajabula thina. Yelele mama, yelele mama. Siyajabula thina. Yelele mama, yelele mama. Siyajabula thina. Yelele yelele yelele mama. Siyajabula thina. Yelele mama, yelele mama. Wow, Africa. Yelele mama, yelele mama. Wow, Africa. Yelele mama, yelele mama. Wow, Zimbabwe. Yelele mama, yelele mama. Wow, Zimbabwe. Yelele mama, yelele mama. Siyajabula thina. Yelele yelele yelele mama. Siyajabula thina. Yelele mama, yelele mama. Siyajabula thina. Yelele yelele yelele mama. Siyajabula thina. Yelele mama, yelele mama. Ed eccoci qua, come avete riconosciuto dalla sigla, comincia adesso Uru, la trasmissione che parla di Africa. Dopo aver saltato la scorsa settimana, ritorniamo stasera con la 79esima puntata e riaffrontiamo uno dei temi sonori più importanti di Africa. Sì, appunto, l'Afrobeat, puntata 79, dedicata all'Afrobeat, ce ne siamo occupati, l'abbiamo fatta ascoltare in diverse altre trasmissioni, ma appunto la produzione di musica, di suoni Afrobeat è quasi sterminata, in particolare in paesi come Nigeria e Ghana. E non solo sterminata, ma anche che si rigenera, si rinnova in continuazione. E appunto una ragazza, Sista Soul, Okoye Odili, probabilmente una delle poche donne in un panorama afrobeat, appunto, in cui i frontman sono quasi esclusivamente maschili, ha rigenerato il genere, iniziando già a metà degli anni 2000, 2004-2005, come cantante della famosa band Afrofunk di Lagos, appunto, Nigeria, Ayetoro. Poi successivamente si è esibita da solista e 2-3 anni fa ha prodotto insieme a un gruppo afrobeat brasiliano, in questo caso gli IFA è un acronimo, un disco, una produzione appunto, che è un progetto, è stato ispirato dalle rivolte di strada che hanno dominato in Brasile negli anni precedenti a Olimpiadi e Mondiale di Calcio, appunto queste rivolte che protestavano in particolare contro la cattiva gestione dei fondi da parte del governo. E tra l'altro non è un caso questa collaborazione Nigeria-Brasile, proprio perché appunto in Brasile non solo ci sono tante band afrobeat, ma proprio perché appunto ci sono delle similitudini oltre all'aspetto principale, che è appunto che i neri brasiliani provengono appunto dall'Africa. Lagos e San Paolo sono le città più popolose dei loro rispettivi continenti, ma non solo, c'è questa carica, diciamo, piena di soul, politica, anche tagliente, sperimentale, che è un marchio di fabbrica e caratterizza questo lavoro congiunto tra Ok Odili e l'IFA Afrobeat. E il pezzo che vi facciamo ascoltare di questa ragazza, appunto, in questa band, tra l'altro un soggetto particolare che porta avanti non solo questa peculiarità dal punto di vista dell'essere donna nell'area, nel campo afrobeat, ma tutta una serie di battaglie in Nigeria di genere dal punto di vista femminile e femminista. E vi facciamo ascoltare un pezzo che, appunto, già il titolo è significativo, si intitola Afrofunk Revolution. We'll be right back. come sapete è in corso a Cannes il Festival del Cinema e a questo film sono in concorso 21 film, tra questi Atlantic, primo lungometraggio della franco-senegalese Mati Diop. La pellicola inizia in un sobborgo di Dakar dove i lavoratori decidono di lasciare il Senegal appunto per cercare un futuro migliore. È un film che combina una dimensione da documentario con una fantastica. Questa parte è particolarmente rappresentata dai fantasmi dei giovani scomparsi in mare che tornano per invadere la città. A Cannes è la prima volta che una regista senegalese gareggia per la Palma d'Oro. A 37 anni Mati Diop è considerata la nuova generazione del cinema senegalese che ha sfornato grandi registi e film negli anni. Lei è figlia del musicista Bassiste Diop, di cui abbiamo ascoltato dei pezzi in Unuru, e nipote del regista Djibril Diop Mambéty. Ha esordito nel 2008 con un film di Claire Denis, 35 Rooms. Nello stesso anno ha debuttato a Cannes, ma non in concorso, con Mille Soleil. E ha trascorso, pensate, 5 anni a modificare il suo primo lungometraggio, che è Atlantic in versione ridotta, girato in Wolof, lei naturalmente spera che a questa prima opera a Cannes ne seguiranno altre. Sempre Afrobeat, sempre Nigeria, il prossimo pezzo di Ebo Taylor. Il pezzo si intitola La Terra Roba, ma è importante anche una sorta di biografia di Ebo Taylor, perché già dalla fine degli anni 50 fa parte di una delle più importanti band e fanno una genere più popolare e apprezzata, in questo caso in Ghana. Ricordiamo che Ghana, Nigeria, Benin, Togo sono paesi confinanti e in un continente dove le frontiere, specialmente in alcune zone, contano pochissimo, c'è un continuo interscambio, un continuo andare e venire tipo da Accra a Lagos, da Lagos a Port Nouveau, via dicendo. E poi successivamente si sposta a Londra, poi ritorna in Nigeria e contatta un Fela Kuti, che cambia chiaramente il destino della sua musica. Come dice lui stesso, in seguito divenne militante per la seconda indipendenza sonora della musica africana e tra l'altro ribadiscelo, il music is a weapon, la musica è un'arma, che è sostanzialmente l'anthem, l'inno, la parola d'ordine dell'Afrobeat. E appunto alla fine degli anni 70 inizia a incidere da solista, sviluppando un proprio stile che combina la tradizione ghanese, nigeriana, l'afrobeat, il jazz e il funk, ed è proprio in questo periodo che incide A Terra Roba, il pezzo che ci ascoltiamo. Thank you. Thank you. pezzi extra large dal punto di vista della durata per l'Afrobeat, appunto sempre Uru, tutti i venerdì alle 21.30, in replica la domenica alle 23, il lunedì alle 8.30 su Radio Wombat, ascoltate in streaming wombat.blogs.org, andando e cliccando sulla pagina streaming, così come ci sono anche altre pagine che riguardano in particolare il palinsesti, che cambiano ogni tanto, e la pagina podcast, a cui potete risentire i podcast di tutte le trasmissioni e appunto anche di Uru. E come detto, inizio trasmissione, dopo aver saltato la puntata la settimana precedente, proprio perché appunto Radio Wombat ha seguito in diretta il Festival della Letteratura Sociale, si è tenuto la Polveria, e anche il prossimo weekend, il prossimo fine settimana, Radio Wombat si trasferisce al CS Ernest Emerson, proprio perché appunto sarà in corso dal giovedì 30 alla domenica 2 giugno l'H Meeting 2019, il raduno, la convention della comunità anche, ma anche di tutti coloro, ingresso libero chiaramente, di tutti coloro che sono interessati a smanettare sul computer. L'importante non è avere una tecnica particolare, ma l'importante è la curiosità, la voglia di mettersi in gioco, la voglia di provare. Il programma lo trovate su hackmeeting.org, appunto proprio alla sezione Hackmeeting 2019, ricordiamo il CSA Ernest Emerson. E appunto anche la prossima settimana il palinsesto sarà un po' sconvolto, e quindi molto probabilmente Uru non si sa, ecco, se ci sarà oppure no. Voi comunque venerdì alle 21.30 sintonizzate o streamizzatevi, e comunque non solo venerdì, insomma dal giovedì, ecco, anzi tutti i giorni, e quindi a tutte le ore. E ricordiamo i social, anzi il social Twitter, twitter.com/radiowombat.fi, la posta è elettronica, posta Wombat chiocciola in siberia.net. Inoltre potete ascoltare Radio Wombat nella zona di Firenze alle frequenze onde medie 1359. E parlando appunto del Ghana, c'è una tendenza che unifica attualmente tutto questo stato dal punto di vista culturale, ed è lo smock. Lo smock è una camicia a righe simile al dashiki, un altro indumento famoso in Ghana, e viene indossato sia da uomini che da donne. Infatti per le donne diventa un vestito, mentre per gli uomini diventa una camicia. Lo smock ha diversi nomi, è chiamato Bana da Imam Brusis, Fugo o Batakari nella regione del nord, Danzica nel dialetto Frafra, Futik nel dialetto Kusal, eccetera. Così come il Kente, la stoffa simbolo del Ghana, lo smock era un indumento indossato precedentemente solo dai regnanti nelle regioni del nord, ma oggi è popolare in tutto lo stato, e è una cosa simpatica perché sono queste cose tradizionali che spariscono per un po' e poi invece anche gli stessi giovani se ne riappropriano. E è fatto con fili di cotone colorati in tessuti principalmente a mano o qualche volta anche a macchina, con lo stesso meccanismo dell'intessitura del Kente, e poi cucito. Normalmente è come un top, ma allentato, e ha delle lavorazioni ricamate sia sulla scollatura V che sulle maniche, e a volte anche nell'orlo inferiore. Storicamente lo smock era rarissimo in Occidente, solo negli anni 90 si è iniziato a vederlo perché alcuni migranti del Ghana lo indossavano. Negli anni recenti, prima era un po' da occasioni particolari, diciamo, adesso invece lo usano tutti per andare al lavoro e comunque nella quotidianità. Sì, appunto da questo punto di vista è significativo il fatto che viene riutilizzato questo abbigliamento tradizionale, ma viene utilizzato in una forma che contrasta, come dire, i vestiti del nord, i vestiti imposti dalle potenze coloniali, insomma, e quindi anche da questo punto di vista una sorta di ripresa, ecco, di anticoloniale, ecco, un abbigliamento anticoloniale. E sempre questa striscia di terra, appunto, che dà sull'oceano, sul Golfo di Nigeria, Ghana, Nigeria, appunto, Ghana, scusate, Accra, Lagos, si è mosso anche Gedou Blay Amboulay, origine ghanese, però che cantato, ha inciso anche in Nigeria e ha creato anche un proprio genere musicale, Assimigua, tant'è che il pezzo che vi faremo ascoltare si intitola Assimiguato e non era particolarmente conosciuto fino alla fine degli anni 70 fuori dal suo paese, ma poi successivamente si è sempre più imposto, ecco, all'attenzione internazionale, e la sua particolarità era stata tra i primi, anzi è stato etichettato, tra virgolette, come il padrino dell'hip life, cioè la fusione tra l'hip hop e l'hip life. Il pezzo l'ha sentito da Assimiguato, Gedou Blay Amboulay, The Steppenwolf. The Assimiguato, quagli, ma, about the boots to do, what's out there, quagli do, mamma, na, stomma qua, quagli, stomma qua, qua, a one, a two, a three, a four, get it. Chao, Mamana, come on, Papa. Without the boosting, about the quadrilly, about the happy death, happy mamana, stomach, come on, summer, mamana, boo, boofa, huh? Without the happy death, boof, without the quadrilly, boosting. E il rap si sentiva proprio in questo pezzo. E Facebook ha chiuso 265 account israeliani accusati di diffondere contenuti violenti e ingannevoli e rivolti principalmente a diversi paesi del continente africano. I contenuti falsi riguardavano notizie politiche e si sono concentrati in particolare nei riguardi di Nigeria, Senegal, Togo, Angola, Niger e Tunisia. Mentre altre non del continente africano hanno fatto anche nei paesi dell'America Latina e nel sud-est asiatico. Praticamente si tratterebbe di una vera e propria rete di account, pagine, gruppi ed eventi in Facebook, appunto, che hanno avuto un comportamento coordinato in modo con l'obiettivo chiaro di influenzare una vasta platea di utenti. Praticamente hanno creato account falsi per diffondere questo contenuto e aumentare artificialmente il coinvolgimento, presentandosi come enti o stampa locale e pubblicando informazioni false che loro dicevano che trapelavano dai politici. Questa era appunto un'organizzazione con base in Israele chiamata Gruppo Archimede, e questi qui erano riusciti ad avere circa 2,8 milioni di seguaci su Facebook e si sono beccati praticamente $812,000 pagati in svariate monete per fare appunto disinformazione politica rispetto a questi paesi. E il prossimo pezzo è Senkuti, il figlio più giovane di Fela, che appunto ha proseguito sulla scia del padre la carriera musicale. Lui ha iniziato a 7 anni, era già sul palco insieme alla band di quel periodo di Fela Kuti, le Cipre 80, che appunto poi successivamente ha suonato e suona tuttora con Senkuti, in particolare appunto all'African Shrine, che ora attualmente si chiama New African Shrine, che era e lo è tuttora il luogo deputato dell'Afrobeat a Lagos. E facciamo ascoltare Think Africa, che appunto è una delle canzoni di Senkuti, anzi una delle tante pezzi di Senkuti, che parla appunto della necessità di una lotta per una dignità, per riprendere in mano la propria vita da parte dei popoli africani. Think Africa, Senkuti. Thank you. I beg Joe, they're not tough for this kind of leadership of boxers, Joe. Why don't they fight themselves every day? Inside they never beat themselves, so they throw shia. Tomorrow, now the president, they beat in fights. Army go beat police go beat civilians. Even before we civilian fight, they don't fight themselves for us on our behalf. I beg. Bad. E a Bologna continua fino a settembre, iniziata, aperto i battenti alcuni mesi fa. Ex Africa, questa mostra raccoglie più di 200 capolavori dell'arte africana, dell'arte nera, ecco, come è detto in questo caso, e una bella mostra per capire appunto in particolar modo le forme artiste dell'Africa subsahariana, ma che non deve far dimenticare appunto gli anni, secoli di depredazione dei tesori africani che hanno questa doppia particolarità distruttiva: da un lato, appunto, togliere proprio valori, cose preziose, e dall'altro, togliere una memoria artistica, culturale, che poi è anche una memoria storica. E non a caso, infatti, la mostra è costituita da pezzi provenienti da 18 musei, di cui soltanto uno africano. Museo di arte africana di Lagos, e quindi appunto da vedere, però nello stesso momento da tenere in mente questa particolarità. E da questo punto di vista, dopo che da anni e anni la Namibia chiedeva che gli fosse resa uno dei pezzi depredati dalla Germania durante il periodo coloniale tedesco, durante la dominazione coloniale della Germania sulla Namibia, alcune settimane fa la Germania ha annunciato che restituirà alla Namibia un monumento del XV secolo sottratto appunto durante l'epoca coloniale. Si tratta di una croce in pietra situata sulla costa sud-occidentale nel 1487, era un punto di riferimento per i navigatori portoghesi che appunto in quel periodo erano la nazionalità che più, anzi se non quasi esclusivamente, percorreva quelle tratte del Golfo di Benguela. Quando i tedeschi presero il controllo dell'area nel 1890, la croce fu presa, asportata e trasformata in Europa, così come l'obelisco dal Sum per rimanere in Italia, così come migliaia e migliaia di opere d'arte che tra l'altro si trovano in particolare in Francia. E quindi appunto la settimana scorsa il Museo di Berlino ha accolto formalmente questa richiesta. E il prossimo pezzo è degli Anones o Juju, è un pezzo funk afrobeat con l'accento sul funk, ma che ugualmente si sposa all'interno di questa trasmissione. Il titolo è African Rhythmics. Yeah! make you wanna dance. African rhythms make you clap your hands. African rhythms, ooh, will make you dance. African rhythms make you clap your hands. African rhythms will make you want to dance. Ricordiamo che la prossima settimana non sappiamo, ma probabilmente no, non ci saremo perché ci saranno Radio Wombat, farà le dirette dai seminari dell'ACM Meeting, però vi ricordiamo che questa trasmissione, se ne avete perso un pezzo, lo potete ascoltare la domenica in replica alle 23, oppure la mattina del lunedì alle 8:30. Naturalmente potete ascoltare tutti i podcast della radio andando su podcast del sito wombat.blogs.org e niente, Twitter, così. E tra l'altro, ecco, vi volevo dire una cosa. Al CSA Nest Emerson, in previsione anche dell'ACM Meeting, c'è una mostra, per chi è interessato a queste cose, imperdibile, diciamo le cose come stanno, e cioè la... sì, si tratta di Binart, questa esposizione che ripercorre la storia, diciamo, forma artistica delle computer arti insieme, che inizia dal 1961, tra l'altro, con un lavoro di Nanni Balestrini che ci ha lasciato purtroppo e dolorosamente in questi giorni, che appunto è il primo step, il primo passo di questa mostra, che appunto dura, è iniziata alcune settimane fa, dura fino al 2 giugno, appunto, proprio in concomitanza con l'ACM Meeting. Tutti gli orari e tutte le informazioni potete trovare sul sito, sul blog del NEMA, Nestemers Museo autogestito, che a sua volta potete, andandoci direttamente sul sito, sul blog, oppure tramite il sito del CSA Nestemers, cioè una figurina da una parte, cliccandoci sopra andate appunto al sito del NEMA, dove ci sono gli orari e le spiegazioni e le informazioni su questa mostra, così come su tutte le mostre si tengono, si terranno al NEMA. E l'acqua come bene pubblico, come bene collettivo, l'acqua che serve per mangiare, per bere, per lavarsi, l'acqua in cui ci sono i pesci che sono parte fondamentale della dieta della popolazione siciliana, in particolar modo quella che vive appunto sul delta del Niger, su quella, e che troppo e molto spesso è inquinata dalle perforazioni, dalle trivelle delle multinazionali del petrolio, in particolare Shell e del Eni, che tra l'altro sono, l'Eni per esempio, sono continuamente sotto processo per mazzette, per corruzione, oppure per inquinamento, e quindi tra l'altro abbiamo seguito e seguiremo il processo intentato all'Eni, si sta tenendo a Milano proprio per corruzione dei vertici nigeriani. Appunto l'acqua come bene pubblico e di cui tocca riappropriarsi, non poteva mancare Flacuti, un Water No Get Enemy, un pezzo di 10 minuti che è un'invettiva contro chi se ne appropria e la inquina, e un incitamento a riprendersela. È un pezzo lungo, appunto, e con questo pezzo concludiamo questa trasmissione di Uru, dedicata appunto alla provvite. Fela Kuti, Water No Get Enemy. Thank you. se pe o milo malo. If you want cook soup, now what are you going to use? Thank you. eccoci qua alla 79esima puntata. Ci sentiamo presto. Ciao a tutte e tutti. Ciao, ciao. Sia chavu latina, sia chavu latina, sia chavu latina, sia chavu latina, oh Ethiopia, oh Uganda, oh Kenya, oh Tanzania, oh Canada, oh Nigeria, sia chavu latina, sia chavu latina. Hele mama, hele mama, sia chavu latina, hele mama, hele mama.